sandolo te ibulimbae nanongo po decision ina nema tondo pe sanga di tibi windai amutu winjo obulan pe batie se sandolo te ibulimbae nanongo po decision ina nema tondo pe sanga di tibi windai amuto winjo obulan pemba di tabaro singi we ando la mi wo tabaro singi we ando la mi wa wa wa tabaro singi we ya abu de le men de wa wa